Natali. Ho sentito il bip, ma era in cucina che stavo mettendo la, come si chiama? La carta chiappa mosche, la lampadaria, ho capito. E adesso sono sceso. Bene, ho mezzo mangiato, ma boh, ho mangiato pure mezzo male. Cerco non a prendere la pizza, no? La pizza confezionata, no? Inutile, ci metti mezzo chilo di sugo, lo riempi i capperi. Cioè, ma la piglia già pronta, surgelata, poi ci metti una marea di sugo, dico, così diventa pesante, una bottiglia e... Io la prossima volta la voglio nature, così come la fanno di fabbrica me la voglio mangiare. Se no, non ne mangio piuttosto. Adesso, sì, già hai attaccato il connettore. Allora signor, io non c'ero ieri. Vi hanno invitato da qualche parte? Era cena fuori, mi hanno invitato fuori da un'amica, eravamo un po' di persone. Siamo divertiti comunque. Anche ieri qualcuno, è entrato Claudio, è entrato Pomponio e Valerio D'Alghero. E dai, sempre nella media. Non ti sei perso niente comunque? Lo so, mi sono divertito. Ieri mi sono divertito. Stavamo parlando di fulmini. No, che dice che la macchina è il posto più sicuro perché viene, cioè le gomme sono isolate da terra. Ma io ho messo l'articolo di Ittiri che Claudio non ricordava, nemmeno Valerio. A Ittiri un fulmine ha bucato il vetro 1 all'angolo col montante, gliel'ha bucato, si vede il vetro annerito e poi si è scaricata sul volante e sul sedile. Se ci fosse stato il guidatore l'avrebbe sciabidato. E te credo. Tu te lo ricordi quel fatto? Sono negativo. Eia. E quindi boh, sembra quasi assurdo mi. Perché sai, era anche una BMW, non è che uno lo fa per scherzo, no? Una macchina vecchia, gli buca il vetro, lo annerisce, poi rovina un po' il volante e il sedile. No, era una BMW quella. E si vede la foto col buco, proprio all'angolo inferiore del vetro. Aspetta. E non si spiega, anche i vigili del fuoco erano allibiti perché sanno che la macchina fa da gabbia di Faraday, a meno che il tipo non avesse messo, come ha detto Valerio, hai visto quel cavetto piatto che si mette per scaricare a terra, no? Che si vedeva nelle macchine tipo anni 70. E allora il fulmine proprio passa attraverso la macchina e poi scarica a terra. Però non dalla carrozzeria, non lo so, non l'hanno detto comunque sull'articolo. Sì, infatti. Avrà trovato qualche metallo, qualche cosa e riuscito a buttarlo. Cazzo va una potenza, lo guida in tremenda. Eia, non è mica scintille e scintilloni, no? Sono migliaia di volte, migliaia di ampere, se non milioni di ampere. Si vede che ha sfogato. Caspita, il vetro è anche isolante, mi immaginati. Boh, infatti è una cosa inusuale, inusuale. E vabbè. Adesso quindi hanno sfatato quella cosa che la macchina è al posto più sicuro, invece non lo è. Sì, ma deve essere un caso su un milione. Ma sai com'è, dice, la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Magari capita altre volte. Eia. Ho pensato anche un trucco, se poteva essere un trucco, ma pare di no. Pare di no. Sì, infatti. È il classico ago nel pagliaio che può succedere, perché fa realmente da gabbia di Faraday della macchina. E lì invece è proprio come se fosse stato, non che fosse, in effetti il fulmine è un, come lo chiamano, è un fascio di plasma, e dove beccami, ha attraversato la macchina. Forse c'erano anche le foto, una volta c'erano le foto anche di dentro la macchina, però non le ho più trovate. Non esistono più le foto su internet, c'è solo la foto del parabrezza e buco. Poi se te lo vuoi leggere te lo mando, l'ho mandato a Claudio e a Valerio, già, l'articolo da leggere della nuova. È successo nel 2014. Guarda, una volta è sceso in campagna, è sceso il fulmine, nella casa mia, cazzo. Mi ha bruciato il pozzo, il motore del pozzo, della pompa sommersa. Dopo è entrato in casa e ha devastato qualunque cosa che ha trovato, anche gli applicchi che non erano attaccati alla corrente del bagno, me li ha fatti scoppiare. Il fulmine è una cosa, cazzo, paurosa. Sì, sì, è terrificante. Poi ci sono più fulmini, magari più blandi, più piccoli, ma certi fulmini sono proprio il dito di Dio che tocca a terra, capito? E siccome Dia Paola, sai, abita in campagna, zona aperta, e c'ha un passo, c'ha il tralice d'alta tensione, poi c'è un albero grande attaccato alla casa, no? Sai, può beccare gli alberi, insomma teme i fulmini anche lei, li teme come li temo io. Noi il tuono lo temo nei bambini. Io temevo proprio il fulmine, anche quando attraverso le piazze che sta piovendo, che sono con l'ombrello. Non mi piace assai, no. Infatti certe volte preferisco passare muro, che non in piazze, tipo Piazza Italia, no, che è molto aperta. Non sai che il fulmine scelga, sente e vede il metallo il bastone, l'asta dell'ombrello e scende su di me. Guarda, una volta avevo la Opel Corsa e ne stavo tornando da Cagliari, quando è morto il colonnello. Cazzo, ho dormito lì a Sasserazzi, e la notte stavamo tornando con un temporale della Madonna, fulmini, lampi, di tutto, cosa mi ha fatto la vita? Guarda, io andando, dove stavo andando? Forse a Olbia a trovare mamma, insomma mi è capitata questa pioggia torrenziale che, mettendo anche le tergicristalli al massimo, non riusciva proprio e non vedevi nulla. Allora piano piano ho messo la freccia, ho messo retronebbia, perché l'acqua era talmente fitta che non vedevi a pochi metri. Ho messo freccia e retronebbia, mi sono accostato, sono riuscito a vedere, riuscire a capire dove era il guardrail, no? E ho messo le quattro frecce, ma una cosa torrenziale, Nathalie, una cosa vista di rado. Eia, te lo sto dicendo, guarda, anzi, io ne sono tornato, i pullman andavano tranquilli lo stesso, perché quelli sono abituati, no. Ma guarda, un temporale pazzesco, quando si sarebbe fermato? Invece io ho continuato, io ne ho visto di tutti i colori nella mia vita, guarda. Veglia. E una volta invece ero a casa, non mi ricordo se era questa casa o l'altra casa, in Viale Mameli, non me ne ricordo, ma c'è stato. Io ti parlo degli anni 70, 80, più 70, insomma ero bambino, un nubifragio che non vedevi, i palazzi che c'erano a 50 metri, a 100 metri, dai, quasi, non li vedevi, da quanto era fitta l'acqua, una cosa impressionante, guarda la natura quando fa casini, e guarda anche quel... con le tempeste tropicali a Cuba, cosa, dove arriva, sfascia tutto, 20 a 300 km all'ora, B. Altro che antenna baracchino, lì li strazza tutto, anche il tetto. Ehi, la prima volta che implodi a scoperchi a tetti e tutto. Ehi, e poi nel 2008 c'era stata quella tromba d'aria su Sassari e dintorni. E le linee aveva fatto danni, sicuramente antenne CB ne ha sfasciate più di una. Caspita, quella era forte lì. Aveva fatto un bel danno, aveva scoperchiato capannoni a Predanieta, le lamiere, sai quei tetti in lamiera, o in internet volando. Sì, proprio nel 2008 era. Tipo a Santa Maria La Palma, no, non so, quello andando per Alghero, c'era di tutto in strada, fase di fiori, lamiere, di tutto. E anche qua, comunque a Sassari, lo stesso ha fatto un casino. Proprio forte me, che temevi che ti sfasciassi i vetri. Ma era una trombetta d'aria, dai, rispetto ai cicloni, a quelle uragano, come li chiamano, tempeste tropicali, tifoni. Era niente me rispetto a quelli che succedono lì al Centro America, quelle tempeste là. È segreto, a me mi ha crepato la mantova turbo. Ma gli ha tagliato a sigaretto, rubare. Ah, tu ce l'avevi l'antenna, te l'ha proprio... Cosa, piegato il palo o rotto l'antenna? No, tagliato il palo di netto, sembrava tagliato a seghetto. Non me l'ha portata via perché c'erano i tiranti. Allucinante, mamma mia, chissà quante antenne ne ha buttato in quell'anno là. E speriamo che non debba mai venire una trombetta d'aria, se no la mia è leggera, me, se la porta via il vento. E magari poi infilza qualcuno, come cade a terra infilza qualcuno, me. Io stavo tenendo per la mia, stata... ho lasciato tutti i capi attaccati, l'ho lasciato. Allora mi sacco la prossima volta, non mi butti. Eia. Comunque finché è vento teso bisogna temere meno, se il vento è teso è costante, ma quando arrivano le raffiche, no, che per un attimo si calma, poi arriva il moto, boom, quello è che ti sfascia l'antenna e i pali. Quelle sono le cose, quelle cose di moto intense, no? Che arrivano ondate. Eia. Bene, poi vediamo chi entrerà. Comunque sì, quella pizza nata lì. Cioè, la compri già condita, lasciala così, surgirai, tutti ci metti in bei di sugo, è diventata una cosa stomachevole, troppo condita. Infatti glielo dico, la prossima volta la voglio nature, come nasce dalla fabbrica la voglio io. E te diavolo. Infatti non l'ho mangiata tutta, ma anche un po' bugliato. Vabbè, avevo mangiato anche un tramezzino prima, quindi mi sono un po' spezzato la fame. Non ho mangiato nemmeno frutta né budino, non ne ho voglia, mi ha buriato un po'. Troppo sugo, cazzo, no, troppo piccato, era una poltiglia era, davvero me. Io ho mangiato bene pure ieri notte, cazzo, c'era l'agnello, c'era, ho portato mezzo agnello, l'ho cucinato al forno con le patate. Buono, e dove eravate, in campagna o in città? No, in città, qua vicino eravamo. Meglio. Poi beato chi può arrostire in città, per esempio questo di sotto ha un bel... li vendono da bricomen, una specie, sembra un fornetto e al comigno, molto bellino anche da vedere. Qui ci puoi fare tutto, accendi la brace, capito? E ti puoi cuocere, infatti ogni tanto sento un profumo, mamma mia, tipo di pancetta arrosto, mi viene da svenire dalla voglia. E invece noi, e dove lo mettiamo? Nel terrazzino non va bene, anche perché questo ce l'ha il barbecue, no, questo fornetto, come lo vuoi chiamare, ce l'ha lontano dai terrazzini, capito? Non è proprio attaccato. E ogni tanto fa, sì, un po' di fumo arriva, ma niente di che, dai. Senti solo il profumo di quello che cucina, più che altro. Guarda, io quando ero in campagna c'era il barbecue, allora sai, potevo avere cosce di pollo, arrosto, ma le facevo, un'altra cosa, io, guarda. Sì, guarda, Guarda, tutta la roba, se è fatta in padella è un conto, ma se è fatta sulla brace, chissà perché, ha un sapore particolare. E che sia la carne, che siano i gamberoni, che sia il pollo proprio, no. E tutta, come dice Claudio, tutta un'altra gubba. Che cosa vuol dire gubba? Botte vuol dire. Insomma, è tutta un'altra cosa, dai. A me se, mi piace quel sapore di affumicato, mi dà la brace. Ehi, è poco buono, già. Qui avere cosce di pollo, te le fai arrosto, è un'altra cosa. Non è come fare il padello o cosa. Io quando la cucino, se la cucino in forno, è come che sia fatta arrosto. Ma buona, esci, già. Certe volte mi chiedo che sapore può avere la carne umana. Secondo me è tipo carne di maiale. E cosa ne so io? Dai, ci diamo al cannibalismo. Eh? E beh, cosa ti difendi? Due mosche trombando sopra il mio baracchino, lo sai? Acciuppatemi una dietro attaccata all'altra. Ah, spera. Allora, adesso ho messo... Quest'estate ha portato un bel insetti comunque. Non so se da te li vedi, ma qua che lasciamo molto aperto, le finestre aperte ne entrano bene. E quindi ogni tanto spray, cosa, poi bisogna coprire gli alimenti prima di spruzzare, se no inquina anche quelli, capito? E ci avveleniamo noi. No, anche io lascio le finestre aperte qua, perché si possono aprire anche con le ante, no? Solo, oppure tutta la finestra, e questa di qua è aperta tutta. Via, ecco qua. Molto bene. Che ore sono? Le 6? 6 e 7 minuti, sì. Sì, c'ho lo stomaco un po' sotto sopra, mannaggia. Quando mai una deve fare queste cagate qua? Vabbè, purtroppo, tra l'altro mamma sembra che sia per il cucinato, certe volte fa delle porcherie, come che stia regredendomi nel saper cucinare. E magari non ha gana, è fatto di un durane, diciamo lui. Così mia moglie dice, quando non ha gana non ha gana, poi si arrabbia e si arrabbia con me. Se la piglia con te perché non l'hai mangiato o non l'hai gradito? No, cucino io, perché se la cucina a lei siamo rovinati, ma Pirineggia chi c'ha cazzo, non c'ha mai. Io ho il spadiglio a me. Oggi è venuto, siamo andati a Piazza Le Segni, però io volevo andare a vedere le bancarelle. Se si va a Piazza Le Segni, almeno quelle, invece no, mamma si è voluta più andare al bar, ci ha pigliato un caffè, poi avevo fretta, poi ho fatto una spesuccia da MD, LD, non so come si chiami, MD, LD, e siamo andati via, ho detto, ma scusa, perché non siamo andati alle bancarelle? Io volevo vedere le felpe col cappuccio per il prossimo inverno. E dice, beh, allora fermiamoci, fermati, parcheggia e andiamo. Ho detto, no, abbiamo gelati. I gelati si sciolgono poi. E quindi niente da fare, dai. Ma già le vedo dappertutto, da Auchan, dalle bancarelle. Una felpa senza scritta però, perché a me queste con gli scudetti o queste baggianate non mi piacciono. Una felpa nera col cappuccio. Che sia abbondante anche, non deve essere troppo giusta di taglia. Avevo una bella, solo che non era aperta davanti. Se la devi infilare da sotto ed era con roba metallara, con un gruppo rock metal. Poi non l'ho più trovata. Comunque è una felpa, sì, giustamente con la cerniera è molto più comoda. Esatto, non si può aprire. Sì, più o meno comoda da me, invece lì te la devi infilare da sotto. Beh, poi vediamo chi entra dopo, dai. Se entra, sono già le 6:15, no? E sono tutti assenti. Oppure stanno tutti con le orecchie di porco. diciamo più la seconda che hai detto, con le orecchie di porco. Io basta entrare, io tutti sul canale, io questo gatto mi fai cavolare. Signore, che bello, che problema questo, perché si è bruciato proprio questo. Ma che funziona. Bel suono l'accensione. Non so come fare quando muoli la portante il tono qua. Ma vuoi togliere il bip o mettere il bip? Metterlo. Via. Se non veicolare non so se ce l'abbia. Di solito i portatili ce l'hanno tutti. Vabbè, ho detto anche troppo, dai. Mi stava piacendo il G9 Plus, Midland G9, il PMR Midland, ha una forma carina. Sì, lo so, ma a me mi piace questo, il portatile. Eia, beh, quello è bello, tutto a colori, display. Adesso vediamo cosa c'è per il digitale. Certo che bisogna fare una spesa un po', giusto per sperimentare, poi ce li vendiamo, tanto non ha senso. Ci vendiamo agli OM. Eia, tanto io non ne posso usare in realtà quegli apparecchini. DMR, quando ci puliamo li rivendiamo agli OM. E poi i prezzi non sono troppo alti, mi. Ho visto anche Titera, guarda, rivende anche Media Globe, i portatili DMR, mi pare siano a monobanda, sono o VHF o UHF. Eppure ce n'era uno che aveva V e U, tutte e due. Bisogna guardare bene, pigliarceli tutti uguali, o sai che dopo non corrisponda. È successo più volte che nonostante lo standard, apparecchi di diverse marche non riuscissero a comunicare. O hanno sbagliato a programmarlo, perché basta poco lì, basta un piccolo sbaglio e lì non comunicano. È una seccatura più che altro, mi. L'analogico bello, premi e parli, fino a futti. E adesso sta roba da computer. E è già fatto. Però dicendo così è come se io fossi un tonto che non sa programmare una radio, dai. Ho visto grosso modo l'infarinatura, le funzioni che hanno. Solo che ho paura che dopo pochi giorni di sperimentazione li accantoniamo. Già li rifiliamo agli OM poi. Titera, solo o VHF o UHF, non tutte e due. Prezzi, vabbè, non esagerate quanto credevo, solo che no. Se davvero si sbaglia a programmarli, non comunicano, mi glielo stavo dicendo a Natalino. E poi dove li usiamo? Su che frequenza? Dovremmo fare frequenze abusive, eh? Meglio di no, meglio niente. Natalino, di la tua. Andiamo da Gianfranco e ce li facciamo programmare. Certo, yeah. Kirishun di PMR, però anche lì ho sentito gente che non, da un apparato all'altro non li quagliava, non prendeva, o hanno sbagliato a programmarli, appunto. Poi questi cinesi sono un po' ambigui, no? Qualcuno ha detto potrebbero avere chip di scarsa qualità, non lo so, è un discorso troppo ampio. Anche che il negoziante te li fornisca già programmati, no? Soprattutto io qualcosa ho visto, non ha tastiera, non ha display, ha solo volume e canali, no? Sì, proprio il selettore, proprio quelle radio, come le chiamo io, a prova di guardia giurata, no? Volume e canali, non per dire che le guardie giurate sono tolte, ma... Cioè che non puoi sbagliare toccando tasti che non devi, capito? Guarda, quello che lo posso spiegare è che la farina, penso che sia andato a fare per averne un numero sicuro, quindi una volta la produzione, una certa impugnatura, determinati fumi, e poi c'è un po' la radio, sono fatte che si chiamano a terra, non si muovono, però per conto quindi diventano. Quindi stanno anche, tanto per comando, stanno in Europa, si sta sempre dove sono, perché si chiede anche dove sono, e così. Però poi il discorso di quali giurati, si stanno, anche dei DPMR, sono contatti, quindi si sta come standard, simile a DMR, però ridotto ovviamente, con funzioni molto, molto semplificate. Naturalmente questa battuta no, lo faccio perché c'era un conoscente, più conoscente che amico, che lavorava per questi aeroporti razzo, fesserie, no? Avevano questa radio di servizio, ICOM. Era una cosa essenziale, no? Senza tastiera, le solite nere, no? E avevo volume e canale A e canale B, proprio una levetta, canale 1 e canale 2, tutta l'anima proprio, e da lì mi frutta la battuta, no? Proprio di guardia giurata, proprio perché è una cosa essenziale, facile, e che anche uno che non... Insomma, basta che sappia premere il TTT e che molli, perché certi premono, molti col PMR premono, no? Chiamano, Cosa, cosa? Ci sei? Ti avevano premuto però. Non capisco perché bisogna premere per parlare e poi mollare la portante, capito? Una volta imparano quello. È già troppo, dai. Sì, che mi ero spostato, ti stavo ascoltando, mi ero spostato che c'è gente. Natalino non si pronuncia. Va bene, va bene. Perché questa mamma mia, io infatti lo so, che la mamma mia fa tanto di parlare, perché se c'è la convinzione assolutamente sbagliata e così non si pensano. PMR 446 non, è anche vietato, mi pare, rendere le comunicazioni non comprensibili, quindi non si può cifrare, criptare, come lo vuoi dire. Per provare così, sai, con uno arriva a basso, anziché a sentire questo fruscio, no? Che un po' fastidioso per l'orecchio, lì parli e cioè, ti sentono o non ti sentono, lì, capito? Ho visto il programma di uno di questi DPMR. Vabbè, ovviamente è un po' troppo semplice, sì, ci sono certe funzioni di cui non conosco assolutamente la. Poi sai, tra l'altro al cinese certe volte è un po' ambiguo il significato, non si capisce bene. Diciamo che è cinglese, dai, il programma è in cinglese, quindi devi un po'. Deve andarti bene a capire il termine. Ho visto che c'era proprio la codifica, encrypt c'è scritto. C'era sì una chiave, dovevi dare nome alla codifica, non so, tipo codifica 1, codifica 2. C'era questa chiave, lettere, numeri, quella cosa lì insomma. Però appunto, a quanto so io non si può. Ma anche nel baracchino, non male PMR, non si può usare nemmeno quello scrambler banale in versione di banda, non è legale in Italia. E quindi per evitare le ire di qualcuno, non, meglio non usarne. No, non è questione di ire, la canta qua. Quindi la rilevazione di posizione. grosso modo. Se non sei di propagazione ti beccano subito, fanno sì due punti di rilevazione dove si incrociano i cosi, meme e PMR sono entrambi. Bene, Natalino non si pronuncia, lui è più serio, ho capito, abbozza me. Secondo me non è Pomponio. Prova a ridare. Pomponio, scendi dal PMR, io vieni qua. Claudio, ci sei? Sei entrato? Claudio? Cagnetto me, ha una bocca che c'entra la testa mia. Allora, abbassiamo qua, se no non si capisce niente. E Claudio, è da anni che sta professando adesso la cosa avviata, sequestri, coso per il PMR con antenne, non è successo niente, mi sa che è solo una faula. Vero Claudio? Già lo so che sia all'ascolto. Ma se avrà interesse a castigare avrebbero già castigato. Diciamo che è una cosa più importante a cui pensare. Frequenze più delicate, la 45 metri. Ne avevo castagnato uno anche circa un anno fa, forse anche meno. Un uomo anziano, no? Sai quelli che non hanno più niente da perdere, no? L'hanno beccato e hanno portato via la radio la mattina, la sera è rientrato in 45 metri con un'altra radio. Sono ritornati la mattina dopo e gli hanno sequestrato anche l'altra. Però non è nato tutto dalla scoposta italiana, Mi pare che si sono lamentati gli inglesi, Ofcom, mi pare quella inglese, no? Insomma, quell'organo di controllo si è accorto che venivano disturbate le frequenze aeronautiche inglesi su quelle frequenze lì. Allora hanno, sentendo il paragone italiano, hanno comunicato all'Italia, l'Italia si è messa in moto e viene sequestrato tutto. Poi novità non ce n'è altre, insomma. Doppio sequestro ne hanno fatto e questo è talmente... ti pare ti sequestrano la roba la mattina e tu la sera rientri con un'altra radio sulle frequenze pirata, e quello è proprio, come si dice, perseverare diabolico, no? Non mi ricordo tutta la frase. In galera forse, ma chi ci va in galera oggi come oggi per una fesseria del genere, eh? Per un PMR con la potenza aumentata. Ma... Anto... Antonello, ma sì, buonanotte Antonello. Vabbè, Antonello Pomponio, ci sei? Vediamo se c'è. No, Natalino, dai, riprendi un po', dai. Sergente. E cacciali via, no? Non si può. Mica, mi era parso di aver sentito Claudio. Vediamo se entra. La modulazione non ho capito se era del 48 o del DAC. Tra poco entra, ha detto. Tra poco entra. Ok. Che disturbi i servizi civili adesso è tutto da vedere, sono cose che si dicono, no? Potrebbe disturbare, ma non è che necessariamente deve disturbare, poi anche quei servizi civili hanno delle radio con le palle, non è che per una 5 watt di potenza, se sono 5, 4, meno che non ci sia l'armonica proprio che va in ingresso, uscita, ponte o su una frequenza che usano, dai. Vabbè, i ciliegi sono un po' loschi, c'è l'altra armonica strana, insomma, buttano un po' di mondezza fuori, capito? Infatti non so in quale paese dice non li fanno entrare i portati di cinesi, non mi ricordo se era la Svizzera o dov'era, non li fanno entrare, lo sai, se non sono proprio perfetti, che non buttano spuria o mondezza non li fanno entrare, non mi ricordo che paese era comunque. Marco, Marco. Narami, come sta andando del radio? Bene, cosa sei, 48 il DAC? No, no, questo è un altro baracco che era dentro l'armadio, se vuoi ti mando la foto. Ehi, mandamela, guarda che c'è Gianfranco e Natalino però in QRX, c'è questa gente. Ehi, ciao Gianfranco, buonasera, ben ascoltato, dai. No, questo è un altro baracco. Non so neanche se sta uscendo bene, ma dovrebbe uscire bene. Bene. Claudio, è un po' troppo estata. Troppo. È prepotente. Aspetta. Guarda un pochino che abbasso leggermente. Guarda. Così ho abbassato un pochino, va meglio. Sì, decisamente meglio, perlomeno l'inizio di strappo, sembra un po' forte, tipo progressivo, però per 9:20, però è troppo forte. Normale. Sai, devo dire il microfono normale, e tu non c'hai WhatsApp e quindi non ti posso fare la foto. Microfono normale, proprio normale. Potenza ne ha da vendere, va bene, aspetta ti faccio la foto Marco, se la conosci questa radio, perché tu che sei amante dei baracchini, radio non la chiamiamo radio, per me questo è sempre un baracchino, adesso ti faccio la foto, mi ero anche dimenticato di averlo. Eia, qua non strappava però, qua il baracchino è più di bocca buona. Ok? Capito Gianfranco, dicevo, uno può dire sì, potrebbe disturbare, se non è se disturba davvero i servizi civili, no? Ma vanno anche delle radioserie i servizi civili, a meno che non sia proprio particolarmente messo male PMR che trasmette o il Baofeng, diciamo, più che il PMR, Baofeng no. Sai, tutte quelle radio cinesaglia, no? Certe volte hanno dimostrato di buttare fuori parecchia mondezza. La differenza immagini, eccetera, tante competenze non esagerate, e più plausibile. Questo per prima battuta, diciamo così. Nessuno può dire ma non disturba, ma è cancello. Dipende da era del programma, se la versione MR va bene, se la versione MR omologata e testata per lavorare lì. Se ci dobbiamo fare un materiale, se ne va a fatto fare, è un piano virtuale della radio, è questo è un programma. YouTube, che però non trovo, che non dovrebbe neanche essere, dovrebbe essere recente, in cui hanno spiegato qualche giorno, ho fatto fare un disturbo, a una stazione satellitare praticamente, che avevano comunicato. Adesso tu non ci crederai, però guarda, vabbè cosa, non sai da che cosa era generato il disturbo, capisci quanto la gente semplice impianto televisivo, un amplificatore di antenna che andava in autostrada, però fatto questo, questa piccola oscillazione, questo amplificatore che deve amplificare la segnale TV, mandato sulle antenne UHF che ci hanno annunciato guadagno, combinava un casino e qua come basta, non hanno cercato per un paio di giorni, l'hanno provato, non c'è possibile, l'hanno buttato in questa villetta e le hanno detto guardate che voi ci avete questo, quindi ci sono stato a il tecnico che ha messo un impianto nuovo e allora quello che fa cambiare. Adesso non lo trovo però, ma tra l'altro te lo dico. Guarda, credo di averlo visto, ma per caso era un disturbo sulla frequenza di ricezione dei radiotelescopi? Se è quello l'ho visto, bello, bello. Esatto, esatto, figurati quindi quanto poco basta per disturbare. Quindi immagina che non sarà stato trasmittente tempo fu. La devo guardare. Digitale. Guardala. Posso, comune di Torino, del tram, no, quelle su rotaia. E li ha fatti in parte. È bella. Arriva un altro disturbo, non ricordo se quale servizio, però la particolarità era che era un disturbo che muoveva oltre il cielo. Quindi appariva, ovviamente riappariva quando arrivava in quel determinato punto, perché era fermata. Come se trasmette anche i dati di fermata, eccetera, eccetera, le telemetrie, e quindi un tram arriva col disturbo, poi spariva da quell'orario, appariva, poi spariva, e lo volevano camminare praticamente, quindi stava un mezzo mobile, e niente, era un errore, però era un tram, tutto lo stadio. Quindi, scoprirati che da noi, sui nostri apparati, c'era un pedino di disturbo costante, la sequenza di poesia, provocato da figlio. Ma faceva da figlio, no, faceva da figlio. Abbiamo cambiato il sistema e sono poi... Bello quel video, me lo ricordo, lo volevo postare su Roger K se già non l'hanno visto. Allora, per Claudio, se all'ascolto, c'è la connessione che va e non va, funziona e non funziona, quindi per adesso non sta andando, non lo so, da giorno quel fulmine vicino, poi caduto al ponte lì in via Gorizia, all'Ebeditore, no, non lo so, un po' wind sta andando un po' male, ogni tanto funziona, ogni tanto non è come se stessero facendo un po' mettendo a posto roba, ok, appena funziona te lo dico, dai, Claudio, il fantasma, dai. Thank you. carica. E che tipo di segnale è? Che tipo di... No, di che tipo di servizio si parla? Si trovano su varie frequenze queste cose ISM, banda assegnata a servizi o come si chiama ISM, nuova base del tipo macchinari per cure mediche, radioastronomia, non so bene cosa siano questi ISM, però l'ho letto su un band plan di tutta la UHF dai 30 MHz ai non so quanto. Fate, sono qua un attimino in ascolto. Sì, è tutta la quantità industriale, vuol dire industriale, scientifica e medica, ti metto la foto, è arrivata una foto di un bel baracchino. Adesso me lo guardo bene, dai. Natalino, hai gente ancora? Sì. Claudio, ci sei? Puoi entrare? C'è gente? C'è roba al forno. Ti piace come baracchino? Questo è il modello da 200 watt. C'ha il lineare sotto la pancia. Sì, quello lo conoscevo. E ne ho sentito parlare bene. Una bella bestia come apparato quella. Ne ho sempre sentito parlare bene. E... non è nuovissimo nemmeno, non è nuovissimo. È di un po'... da qualche anno a qualche decennio forse. Eia. Aspetta che vado a controllare, scusate, dai, devo chiudere un attimino, devo andare a controllare il gatto perché è saldato dall'armadio alto, sento un ciocco forte, spero non si sia fatto male. Cosa mi stai dicendo? No, il gatto ha detto che è saldato. Ma che mi stavano tornando, molto ben scusati. Sono i video di Claudio che ha messo un roba al forno. Vabbè. Ascolta, Marco, la modulazione è così, leggera, con appena di eco, va bene. Così sì. È sempre appeso come le scimmie, per carità. Anche tu sono mezzo incasinati. Vabbè. Ok, dai. Togliendo un po' di baracchino dentro l'armadio, questo è una bestia, questo è un baracchino, ma è un baracchino versione 200 watt. Ok, dai, va bene. Buttati, baracchini già ne ho io che non li uso, non mi interessa, ma baracchini seri però non mi interessano, questo l'ho mandato a Marco, già l'ho visto, è un baracchino serio, non è una cosa da giocare, no? Guarda, c'ho il wattmetro, la T230 in scala 200, sta andando con 50 watt di portante e modulata a 100-120. Sì, guarda, riesco quasi a leggere la sigla, copra forse 200 GTL o 250 GTL, non riesco riesco a capire se è un 510 perché l'ho ingrandita e un po' sfumata. Un 200 GTL DX. Questo è il 200 GTL DX, quello che c'ha l'amplificatore sotto la pancia. Lo conoscevo, bel mostro. E da quando ce l'hai, come mai non lo togli mai fuori? Mica la roba lasciala nella maglia, si rompe, si rovina. E cosa, se uso il Kevod non posso usare questo. Adesso in questi giorni mi sto dedicando a fare un po' di ordine. E allora abbiamo tolto anche questo. Già va bene, dai. Ho detto, se è leggermente così, giusto per dare appena di preamplificazione, siccome sto usando il microfono normale, se va bene così appena di ecco, ma leggero proprio. Fastidioso? No, così è piacevole, molto piacevole. Non so se sovrappone la parola, è breve, molto breve. Così va regolato l'eco, no? A colto, quei pasticci di colt, di eco colt. Quello è un eco di qualità, non è colt, ma regolato così ottimale, dai. Bene, caspita le 7-5. Sì, non mi sta, vedi, tuttora non mi funziona la connessione, non carica nulla, non... Io spero solo che non sia il portatile, però vedo che sparisce la connessione, appare e scompare, come che questa due sim, è come se avessero casini alla Wind, a me. Tu cos'hai Wind, cos'hai? Io? No, io ce l'ho la team, sì. Già ce l'ho un anno, mi sembra ce l'ho più di 10 anni la team, no? Assolutamente. Va bene, quindi confermi che qua è tutto a posto e va bene. Emmo. Ai, molto bene. E così giusto per fare due chiacchiere con anche questi, con queste belle radio, questi bei baracchini, dai. È che il microfono è all'incontrario, quelli da tavolo che c'ho io, porca miseria, tocca stare con il microfono normale, però già funziona bene. Ascolta, ti chiudo tutto l'eco, guarda. Allora, così è... No. Alzo, così è chiuso. Ora. Ecco, sì, così è chiuso. Così è tutto chiuso. La modulazione va bene lo stesso o è brutta? No, va bene lo stesso. In questo caso l'eco gli dà un bel effetto, un effetto piacevole già. Però anche così va bene. No, vabbè, se tu mi dici che le dà un effetto piacevole, lo mettiamo. Ora, così. Così era regolato o di più? No, di più no. Così va bene, non oltre. E ogni tanto andrebbero fatti lavorare, sì, perché tanto crescono bene lo stesso, anche al mic normale. Anch'io spesso uso il mic normale, cioè tu no, al contrario. Certe volte mi ingombra questo DM1000, devo stare attento col gomito di non beccarlo, se no mi cade a terra, si rovina, capito? Io non ho tavolino, capito? Non c'ero per quello, qua sta in bilico sul bracciolo del divano. E quindi tanto vale usare questi da palmo, tanto la voce la trasmette altrettanto bene. E soprattutto non piglia rumori di fondo né niente. No, questo è... va bene. Aspetta, mi è arrivato un messaggio, a vedere chi è. Ma Gianfranco non c'è più. Ha detto che l'hai stuzzicato e voleva farci qualcosina, lo stesso al forno, al fornetto, boh. Voleva mangiarsi qualcosa. Ecco un attimo. Sì, sono qua. Al caparroggero. Vabbè. Ok, Antonello Pomponio non si è sentito stasera, ho sempre buttato il PMR. L'ho sentito in PMR brevemente. Sempre in Kiwi era fatto, invece entra in Oghi a fare due chiacchiere, sempre lì buttato. Vabbè. noi. Ok, quindi confermami, non devo toccare più niente, perché poi questo io lo stacco e lo rimetto al posto suo, però almeno per avere un riferimento. Certo, poi è sempre questione di gusti, a me piace un eco appena accennato, appena percepibile, a molti piace un eco tutto wah wah, uè, che ripete un bel di volte. Ma non piace per niente, quindi figurati, l'ho solo aperto, è solo una punta ce n'è, aperto leggermente per dare appena appena di preamplificazione, niente di particolare, capito Marco? Niente di particolare, va bene, va bene. Vediamo un po' se c'è Massimiliano, che l'ho sentito, mi sembra poc'anzi. Attento Massimiliano Bulldozer. Massimiliano, allora non era lui, dai. Non era lui. Pisciuga. Segnale sicuramente più alto anche di quello del K, no? Difficile dirlo. Con questo Smith mi sembra abbastanza alto, diciamo, dai. Sicuramente. Ma è Natalino che fine ha fatto, dov'è? Agente, non può parlare. Si è rotto di balle. Quando sei così tutto a giorno, che c'hai tutto nel salone, è un casino. Io per quello avevo lo stesso problema quando ero in via Pascoli. Capito? Mi ero appoggiato a un angolino, però era a fianco alla camera di mia figlia, quindi sino a una certa ora e poi non potevo parlare più, mentre qua volendo, non è il mio caso, ma volendo posso chiudere la porta e stare anche tutta la notte parlando. Va bene, va bene. Tu già mangiato, hai? Beh, diciamo di sì. Così è, già mangiato, va bene. Valerio non si è sentito, niente da fare. No, a meno che... Aspetta. Avevo lo squelciato, a meno che non entri lei. Prova a chiamarlo tu. E già mi sente a me, anche con 4 watt mi sente Valerio, qua ne ho 50. Attento Valerio, a mia copi. No, non c'è, se non sarebbe già entrato. Recco di cambio e buonasera. Ciao Claudio, Marco, non so che c'è a ruota. Buonasera a tutti, andate per te Claudio. Oggi stavo dicendo G, ma cosa ti serve per fare quell'adattatore per il l'MB più 5? Quindi dal 48 al praticamente al come si chiama? Quello che c'hai tu. Al Galaxy, perché sono invertiti. Cosa ti serve a te? Un maschio, una femmina, cosa ti serve? Aspetta, non ho capito. Tu devi fare dal 48 a quello a 5, da quello a 5 a quello a 48, così è. Assolutamente. No, niente a 5, sempre a 4, però l'MVP5 che c'ho io c'ha la connessione per la LAN 48. Se io lo metto sul Galaxy va importante, quindi devo usare l'altro microfono, capito? Va importante perché sono diverse le connessioni, no? È sempre a 4, però mi pare che sia invertita, così è. Sì, da sopra a sotto, e va portato così da sopra a sotto e viceversa, capito? Io pensavo tu mi avevi chiesto di quella 6 punti a 5 punti, quale mi avevi chiesto tu l'altra volta? Sì, è per il MB più 4, lascio così Gigi. No, mi serve sempre per l'MB più 5, no? Quello che ci ho collegato sulla LAN 48. Praticamente da poter usare lo stesso microfono anche col Galaxy, capito? Ah, ho capito, sì. E allora, ci vuole il coso, quella 4 che è attaccato al baracchino, dove entra il microfono, e più l'altro del microfono, poi basta, per fare per farti le cose del contrario. Se te le preparo, se no c'ho 5 minuti te li passo e me lo fai, perché così uso un unico microfono e comprendo più nulla, no? Che so, 4 MC60, SM20, MD1B8, MB più 4, più 5, zone più 3, più 2, non si comprende più nulla. Ne voglio usare uno e basta, capito G? Uno e buco. Vai Marco, riprendi. Ciao Luigi, ben entrato. Claudio, l'hai letto quell'articolo del fulmine sulla macchina? Sì. Sì, sì, ma io lo sapevo già, è Valerio che lo voleva avere, tu l'hai mandato anche a me, ma io lo sapevo già perché, tra l'altro, quella macchina è del fratello del mio ex collega di lavoro, quindi lo sapevo già, capito, con la BMW. Ma quindi il principio della gabbia di Faraday non serve a nulla? Non lo so, lui dice che praticamente la macchina era posteggiata in un punto, sì, un po' alberato, un po' così, non lo so, non ti voglio dire fesserie, però il fatto è che ha preso la macchina, capito? Gigi, riprendi un attimino che sto controllando, mi è arrivato un paio di messaggi da un collega. Aspetta, riprendi Gigi con Marco. È positivo, no, stavo ascoltando, non ho capito il fulmine sopra la macchina non scende, tocca già la macchina, c'è un ramo, qualcosa che tocca la macchina, allora sì. Se c'è un ramo che tocca la macchina, allora sì. Se la macchina è isolata, no. Com'è Marco la situazione? Non ho capito bene. Allora, nel 2014 una la macchina parcheggiata in strada, no? Senza alberi, non una via normale, e un fulmine gli ha bucato proprio il parabrezza nell'angolo basso a sinistra della macchina, proprio le ha bucato il vetro, si vede il foro annerito, poi si è scaricato sul volante e infine sul sedile del guidatore. E c'è tanto di articolo della nuova, te lo ricordi, se vuoi te lo mando. No, mi sembra strano questa cosa, perché c'è la gomme liscia e c'era della tela che diciamo dell'acciaio che toccava per terra. Qualcosa c'era che non andava. Se no non può. Vuol dire che faceva massa per forza a terra di qualche maniera. Capito? Se no non può succedere Marco, assolutamente. Se tu ci metti anche un piede per terra può succedere, allora sì, tu togli il piede fuori, lo appoggi fuori, può succedere. C'era qualcosa che toccava, non si vedeva, ma c'era qualcosa che... Se no, no, è possibile sulla macchina è possibilissimo. E questo te lo dico per certo, perché l'ho un po' anche studiato, quando ho preso certi patenti, l'ho pure studiato questa cosa. Guarda, non avrà avuto dietro quel cavetto per scaricare la statica, no? Può darsi che, avendo quello, caspita, è passato attraverso la macchina, capito? Può darsi sia quello, me l'ha detto anche Valerio d'Alghero, dice, se hai quell'affare, quel cavettino dietro, come si usava una volta, no, negli anni 70, per scaricare la statica, può darsi pure che abbia fatto quel gioco lì. Sì, quello ti scarica le correnti, però ti prende i fulmini, hai capito? C'è qualcosa che toccava, hai capito? Qualcosa che, se no no, perché è isolata, è del camion, anche il carro elettrico non ti fa nulla. Se metti il piede per terra, sì, io ho visto qua, è successo anche qui a Ottava, al camion, si è agganciato con il maltabere in alto, stava scaricando il catrame, stavano asfaltando anni fa, e ha preso il carro elettrico. Sino che è stato seduto, non è successo nulla, ma lui come è andato a scendere, è rimasto un piede, ha appoggiato il piede sul guardarei, è rimasto nel camion, l'ha fulminato, all'istante l'ha fulminato. Morto proprio? No, non è morto, è stato salvato, c'era una dottoressa, è riuscita a rianimarlo, però è saltata la corrente, voglio dire, è saccata la corrente, hai capito? E come ha messo il piede lui sul guardarrail, ha staccato la, però faceva ponte col camion che si teneva e sul guardarrail, capito? Qui a Ottava, proprio vicino a casa, era successo. È andata bene, e poi anche quando la corrente attraversa il corpo è un casino, perché non so cosa succede, diventi quasi carico come una pila, non so, una battuta che hanno fatto una volta, ma... E meno male, gli avrà riavviato il cuore, gli è andata molto ma molto bene, se no sarebbe morto, morto folgorato. Sì, l'ha salvata questa qua che era lì al momento, hai capito? L'ha salvata questa dottoressa che subito l'ha fatto, è riuscita a rianimarlo proprio questa dottoressa lì al momento, per fortuna c'era questa di passaggio lì, capito? A me mi è successo, Marco, a me mi è successo a Fono, nella cabina elettrica, io passavo, scendevo sempre con la gru, col camion, con la gru a scaricare il ferro. E sicuramente era un po' faceva una specie di avvallata dalla di questa stradina, no? E c'era la cabina elettrica a fianco alla stradina. E io passavo sempre sulla parte bassa, già non stava salendo la 127, è da parecchio questa cosa, la pietra 127, io mi sono andato un po' sulla destra. E cosa ho fatto? Ho agganciato tutti i cavi, sai quei cavi che attaccavano alla gabbia, che uscivano dalla gabbia con gli affari in ceramica, i cavi, proprio i cavi, ma quelli li ho tutti tranciati io. E mi sono caduto tutti sopra il rimorchio. Sopra il rimorchio vedevo queste scintille, queste cose, ho iniziato a accelerare, a camminare, e quando mi sono allontanato cosa ho fatto? Mi sono fermato, però avevo paura a scendermene, e cosa ho fatto? Ho saltato per non fare, con la paura che mi dava qualche scarica, hai capito? E ho saltato, perché dice che si accumula, non so, anche quando ti cadono i cavi così, si accumula, non so, della corrente elettroforte, elettrostatica, dice che con i metri piedi ci fulmina lo stesso. Io cosa ho fatto? Ho saltato e non mi sono fidato a toccare il cavi, hai capito? È stata una buona idea quella, almeno non hai fatto il corso tra terra e il mezzo. Eia, mamma mia, poco li temo i fulmini, li temo, non lo so. Poi come ho detto ieri, ho visto che la probabilità di una persona, no, non so se a piedi o come, c'è una probabilità su 3.000 di essere colpito da un fulmine. Una su 3.000, io credo fosse una su 1.000.000, con peggio, invece no, una su 3.000. Capito? Cioè su 3.000 persone colpite tu hai una possibilità di essere colpito, o giù di lì, dai. Sì, l'importante è che tu cammini più spesso quando ci sono fulmini e tuoni, che sei fuori, le gambe sempre più, che tocchino quasi assieme i piedi. È sempre di meno la corrente, capito? Se tu metti un piede troppo giù sopra l'altro non ti fa nulla nel fulmine. Ti fa cosa se tu più allarghi, più allunghi il passo e più ti prendi il fulmine, capito? Perché una pecora la fa di meno e una mucca la carbonizza completamente, perché c'è uno sbalzo di cose più di cose, capito? La mucca proprio fa in carbone, è proprio in cenere, si può dire. È successo perché le ho viste a mio cognato, le ha ammazzato la volta questo pulmine sotto un albero grande di olivastro. Sei mucche, quelle che erano sotto le ha fatte nere, morte ma nere, la carne non si poteva. Quelle che erano nel raggio di sotto, perché faceva un raggio grande quest'albero, in giro in tondo, quelle lì le ha proprio carbonizzate, proprio fatte carbonizzate completamente. Mamma mia, che brutta morte che deve essere. Io per esempio, se esco con la pioggia, no, col temporale, a piedi, no, con l'ombrello, passando in luoghi aperti tipo Piazza Italia, io un po' temo. Oppure che ne so, sai, l'asticella metallica dell'ombrello, se è metallica. E allora preferisco andare muro, non passare in mezzo alla piazza. Vabbè che se poi becca il palazzo e tu sei a fianco al palazzo ti becca di striscio lo stesso. Non lo so se è meglio fare. Per cosa? Anche l'ombrello prima, ti ricordi, erano tutti in ferro, facevano in ferro quel coso, quel manico in legno, in plastica, che forse tu a volte toccavi con il pollice, col dito grande, toccavi il coso del ferro tenendoti l'ombrello così per riparando la rifugio. Quello era un pericolo. È successo qui a Ottava, visto che c'è a casa un uomo di Antonino, si chiama con anima. L'uomo lì era fuori nell'orto, vede, e aveva il picco, non so, col picco stava facendo, stava scavando, non lo so. Era una giornata un po' così, scende questo fulmine e l'ha preso proprio a questo picco, però col manico in legno l'ha preso il picco e l'ha dato una cosa, lui si è un po' spaventato. morto dopo l'indomani, è morto quest'uomo, te lo immagini, è morto, non so se è stato oltre allo spavento che ha preso, comunque l'indomani è morto quest'uomo dallo spavento, dal coso, che questa specie di scossa che gli ha dato questo fulmine, capito? Penso che abbia alterato l'attività elettrica del cuore anche, e poi può darsi pure lo spavento, mi faccia dello spavento, mi si scende un fulmine anche davanti, mamma mia. Poi il botto è terrificante, quando proprio sei vicinissimo è terrificante, proprio è assordante, una scintilla però fortissima, pare una bomba atomica. No, già sto bene, mi è lui tutto che tremava, dallo spavento, dalla scossa, gli ha detto la sua scossa, e lo volevano portare, no, c'è avuto, sto bene, era di mattinetta, è stata mattinata quando è successo, poi l'indomani è morta, sai che mi squilla. Gianfranco, ci sei ancora? Claudio, sei rientrato? Sì, sono rientrato, però vi devo lasciare momentaneamente perché devo andare a portare il cane, se no poi si fa tardi, tra l'altro c'ho anche gente a cena, c'è mio genero, devo rompere palle, poi c'è alle 8:30 non è pronto. Va bene, dai, se ci siete ci sentiamo dopo. Gigi, mi preparo quella roba lì e poi magari ci faccio un salto e te la porto. Così me lo prepari e uso un microfono con tutte le radio che ho praticamente, capito? Perché sono invertitemi. Un po' sono come la 48 e gli altri sono come il Galaxy, capito? Il Galaxy, il DAC, insomma gli altri baracchini che ho. Va bene, dai, momentaneamente vi saluto e ci sentiamo dopo. Ok, riprendi Gigi. Ciao Claudio, ciao. Oh, Marco, devo scendere un attimo giù che c'ho gente che mi ha chiamato al telefono che devo prendere una commissione. Saluta Claudio, che dammi 10 minuti che c'ho gente giù che mi sta cercando. Sì, vabbè, tanto adesso, visto che Claudio va a portare il cane, faccio una pausa anch'io, dai. Vorrei mangiare un po' di frutta, dai. Ok? Claudio, vai, fai un giro, io lascio tutto acceso, se non rispondo, vabbè, come sempre ritieniti salzato, ok? D'accordo, vai, sentiamo dopo. Marco, ci sei? Marco. Ora lui mangia. Pistrelli a quest'ora mangiano. Così hai detto Gianfra? No, io ancora. Stanno preparando. Come faccio io? Sei tu che mangi tardi e digerisci dopo. Come rovinarsi un po' tutto il sistema, come si chiama, neurovegetativo, il jet lag, lo possiamo chiamare. Allora, riprendi Gianfra che mi cambio, sono salito adesso che ho col cane. Come, appena entro io te ne vai tu. Sto cambiando, Marco, un minuto, riprendo subito. No, ho mangiato verso le 5:30, però troppo condito, dai. No, mamma, pesantemente condito una pietanza. È troppo però, così è una poltiglia, troppo. Ma anche un po' disgustato, infatti non ho mangiato né frutta né dolce. Già mi rifaccio adesso, dai. E le cose io le voglio in nature, se una cosa la compri così, la mangio così, no? Che ci mette mezzo chilo di sugo. Era una pizza pronta praticamente, già condita di suo. Mezzo chilo di sugo, la tempestata dei capperi, di non so cos'altro. È troppo, dai. Così diventa tutta una cosa proprio che ti sazia dopo due morsi. scondita. E vabbè. Infatti, naturale, era già buona a me come pizza. Caspita. Babba mia, io ho mangiato sugo praticamente, non pizza. Dice, per arricchirla, è all'anima però, così è proprio sprecare la roba. Ne ho lasciato anche un pezzo. Stavo facendo schifo. C'era più condimento che pasta in quella pizza. Non va bene, dai. E Natalino poi è rientrato? Natalino, c'è sempre gente a casa in visita, è diventata la Mecca la casa di Natalino, e quindi non può modulare perché lui c'ha tutto, diciamo gli spazi sono un po' ristretti, no? Invece sai, per esempio Claudio c'ha quella camera, se vuole si parrica dentro e può stare tutta la notte a parlare. È una gran cosa per il baracchino. Vabbè, io ce l'ho nel salone, ma tanto qua non viene nessuno a trovarci, per fortuna. Non mi piace ospitare, preferisco essere ospitato. Eccomi qua, sono rientrato. Ehi, io quanto la vendi quella radio? Non me la rendo. Ui, ma tu sento questa radio? Non ne hai idea. Questa è a livello di un 140 in vendita. Se dovesse venderla, capito? Non meno di 300 euro, ma stai scherzando, sei una bestia. Questo costa una barca di soldi, sembra che costava più del magno. Siamo lì, però il magno cioè costa più di quello che vale il magno, ma se no, hai capito? Lo so, quello è un apparecchio ammiraglio era quando è uscito. Ce l'hanno anche in pochi, ti dirò, non è una cosa che trovi, che dal prezzo che avevo, poi non, in Italia ne sono arrivati pochi di quelli, no? Non credere che ne trovi. No, l'ho detto così buffonando, sicuramente lo tieni quello lì, e l'hai provato anche in banda laterale, in FM, tutto a posto, sì, anzi forse quello FM non è anche americano. Scusa, oh Marco, cosa hai detto? Questa? Nulla, nulla. Guarda, io l'ho avuto le Senofe, non ha niente a che fare questa con le Senofe, lascia perdere. Lascia perdere Marco, ma tu lo sai quante volte da questa radio? Allora, c'ho 80 volte di portante normale, muta. Modulati sono 120. Neanche il magno quello, la seconda serie, dalle stesse watt di queste. In banda laterale era quasi 200, 185 watt la banda laterale. È una bestia, lascia perdere. Eia. Sì, il magno ma è troppo tutta estetica, forzata, ma poi ha dato un bel problemi, i segmenti che si spengono del display, no? Che si bruciano e tante altre cose. Hanno fatto 3 edizioni delle S9, mi pare. La prima o le prime 2 davano più problemi, poi forse, dico solo forse, l'hanno un po' sistemato, però troppo, non lo so, poi costava un sacco di soldi, ma vai, quello in proporzione, la spesa valeva la candela, capito, per quello lì. Questo va la candela virtù, ho detto che questo è il modello 200. C'è un amplificatore sotto la pancia, capito? Non ha bisogno di niente, potenza regolabile, ma è una bella bestiolina. Vabbè, comunque, se qualcuno lo vuole, 300 euro, se lo porta via con la scatola e tutto, capito? Se no rimane qua, non ci sta chiedendo assolutamente niente, a regalo non si dà nulla. Vero Gianfra? Cosa? Questo come il tuo? Il 200 GTLDX c'hai tu? Questo è da 200 watt o vale? Questo io sto andando adesso con la potenza massima e sono 80 watt di portante bianca, 120 modulati, in banda laterale era quasi 200, 185 watt, ma c'è l'amplificatore sotto la pancia questo, capito? C'è il modello quello da 50 watt. va bene, ok, avanti Marco, riprendi per Valerio e fai girare per Gianfranco. Ho dovuto, avevo lo squelcio, per quello non arrivava Valerio, perché adesso è liscio, no? Quindi è un po' più basso. Ciao Valerio, ben entrato, riprendi Gianfranco. Poi Claudio, a riprendere, vabbè che mi fra poco, anzi fra pochi istanti c'è il TG, vabbè che ho visto anche le T4, le solite cose, l'alluvione, mamma mia, ho visto la casa, hanno tolto tutta la roba mischiata a fango, tutto c'era, tutto ciò che c'era nella casa, tutto distrutto, mamma mia. Nico, più di suo morti familiari a quello, per carità, guarda, anzi no, è morto anche lui, il nonno, se ne immagina, una famiglia di, ma come mai non si sono precipitati ai piani di sopra dal nonno? Nonno non ne capiscono. Ma guarda, sinceramente non lo so cosa è successo lì, non lo so, assolutamente, io evidentemente non ce l'hanno fatta, Marco, non ce l'hanno fatta a mettersi in salvo, perché la forza dell'acqua era talmente veloce che non sono riusciti ad uscire dal seminterrato, diciamo, dalla cantina, per salire ai piani superiori, ma tieni conto che l'acqua è salita anche ai piani superiori, quindi non è che c'era via di scampo, capito? Un bel casino. Oh, Vale, ma sei a casa, come ti sto arrivando? Normale questo, sto usando il Cobra, ti ho detto, il 200 GTL DX. Questo è il microfono normale, ho aperto appena proprio leggero di eco per darle un pochino di amplificazione, dai. Però il microfono normale è questo. Marco? Sì, è chiara, mi sto ascoltando io, perché c'è anche il parlascolta, capito? Mi sto ascoltando, è molto chiara, c'ha degli acuti abbastanza buoni, però il microfono è normale, non è amplificato. Se Gigi mi fa il cavettino uso l'MB+5, adesso vediamo in settimana, e anche questo bisogna farlo girare, se lo facciamo girare, no, potenza ne ha uffa, banda laterale da quasi 200 watt, quanto è il 440? 185 watt, anzi di più, perché il 440 ne dà 150-160 in banda laterale, questo ne dà 185, in AM modulate ne dà 120, 80 di portante bianca, e cosa vuoi di più? Un Lucano. Vai Marco. Vabbè sì, la modulazione è un po' diversa dal K, quello sì, ma io ricevo lo stesso toni alti, perché questo apparecchio riceve un po' più alto, capito? Va bene, signori, dai che scappo, mi guardo al TG. Buonasera a tutti, ciao Claudio, Valerio, Gianfranco, dai, buona serata, chiudo, ciao. Ciao Marco, ciao, ci sentiamo domani, dai. Vai Valerio. Finisco il filtro a vedere come arrivi, prova. Sì, c'avevo il filtro un po' più stretto. Va bene. E così è, vabbè. KK. Maestrale, tutto a posto via d'Alghero, sì. No, la mia, vabbè, no, non si sente neanche. Non si sente perché è talmente in alto, cosa. No, non fa, dai. Non fa. Lo fa quando ho portato il cane, stavo guardando le direttive, sembrano cementate. Manco si muovo. Vabbè. Gappa. Comunque, già è tutto sotto controllo, va. La modulazione di Massimiliano addirittura. Perché anche lui usa baracchini così, capito? Già vabbè. Voglio tirare su un pochino. Allora, questo era fine a corsa. Questo, hola. Eccolo qua. Così va meglio, Vale? È troppo alto l'eco? Già va bene. Riesci a vedere? Ora. Mamma mia, quanto è brutto. Aspetta che lo... Allora, così è tolto. Così non ce n'è niente, Vale. Così è proprio a zero. Così invece gliel'ho messo a uno, dovrebbe andare bene così, no? No. Ho lasciato uno, no, stavo facendo la prova se funzionava, ma già funziona tutto, perfetto, ok, che ore sono? Sono già le 8, ammazza, ne è varie, vabbè, tra un po' andiamo a pappare, volta che mi è successo a me, non è la prima volta che mi è successo a me, lascia aperto. Allora dice, quando sei ai fornelli lascia stare il baracchino perché sennò si cede a tutto. Ma c'era anche Gianfranco, Gianfranco sei andato da qualche parte, ci sei? Sì. Forse Gianfranco è andato fuori a vedere qualcosa, dai. Già va bene. Ok. E niente, Franco, come hai sentito oggi? Io sono andato sabato, mi pare, sabato che ero a riposo, sono andato alle poste a fare la luce e c'era il mondo. E allora ma sono andato alla Sisal, ho pagato un euro in più, ma almeno faccio in fretta, capito? Che sennò lì è un casino. Già va bene. Che problemi c'ha Franco con l'antenna? Ho sentito la staffa qui là, cosa dovete fare? Così, ma ho capito. Già va bene, allora dai. Tutto gappa. Questa in scala a 50. Se ne va, quando parlo se ne va a punta di casina sta cosa. Allucinante. Va bene, dai. Ok. Dai, Valerio, io ti saluto che è già pronta la cena. Ok, mi ha fatto piacere ascoltarti, due prove le abbiamo fatte, questi baracchini ancora funzionano, e quindi li usiamo, dai, almeno facciamo riposare un po' queste vecchie carcasse della Kenwood. Ci sentiamo domani, Valerio. Ok, ciao anche a Marco se n'ascolto, Gianfranco e chiunque fosse qua sul canale 10. Dai. Ci sentiamo domani, Valerio, e chiudo e vado a dare una mano. E c'ho anche gente a cena stanotte. Ciao. Ciao Valerio, dai, ci aggiorniamo domani. Ciao.